buonasera. Ciucu ciucu, buonasera. Buonasera Gian Maria. Nessuno è andato a vedere i candelieri, no? Troppa bolgia. Buonasera anche a Marco, Cazzo, io pensavo che fossi già guardato i candelieri, cazzo. E a te ti piacciono, no? No, i candelieri no, zero totale. La verità, proprio non mi piacciono. Mi piace la cavalcata di più, però anche quella è più di 40 anni che la vedo, quindi non vado nemmeno più alla cavalcata. Va bene per i turisti, per chi non l'ha mai vista, ma per chi ci vive, alla fine è sempre uguale, quasi sempre uguale, dai. Ogni tanto aggiungono qualche rifinitura per fare colore. Lo sai che una volta avevano fatto unire alla cavalcata un gruppo di africani, no? Proprio che suonavano i tamburi loro, no? Che ballavano quelle loro danze. E io ho fatto la battuta a alta voce, quello è il gruppo dei cagliaritani. C'è gente che mi ha guardato male, sicuramente la gente di Cagliari che l'ha venuta a vedere. Meno male non ti hanno aggredito. No, anch'io sono da parecchio che non ci vado, né a cavalcata né alle candeline. Ma un baby, mi saranno 20 anni e più che non vado lì alla cavalcata, di più ancora. Un paio d'anni ho fatto l'infilata con lo col fuori sei canali, cazzo, ancora mi ricordo, quella con l'antenna cannocchiale, cazzo. O la Faiese, non mi ricordo bene, per un paio d'anni, però dopo, per carità, ogni spacchinata, cazzo. Lo so, è troppa gente, è troppo caldo. Sì, io ero con un gruppo di amici e mi è uscito distinto. Abbiamo visto quelli africani, ho detto, questo è il gruppo dei cagliaritani. E qualcuno si è girato e mi ha mandato un'occhiataccia, davvero mi. Devo stare attento con le battute. Mi potevo anche aggredire veramente, mi. O ronzare. C'è quello che trovi. E poi grisetti. E tu, Antonio? Per me non potevano violentarlo invece. Marco. Oi. No, io non sono andato ai corsi candelieri, già lì che non vado. Ci ho abitato proprio quando c'era la liscia dei candelieri, c'era un po' di casino. Poi ero negli orecchi, c'avevo per 2 mesi quella specie di tamburini, fino alle 10:30 di notte avevo le balle piene. Non è possibile, dai, specialmente alla certa età, come fai? Ma lo sa, cazzo, con questo caldo in mezzo a quella folla, sempre in piedi, e non ci posso sedersi, ma buffonendi sì, ma. Lo so, è sempre la stessa, per cui l'abbiamo vista troppo, e per cui noi siamo arrivati alla certa età, e chi ne ha voglia di muoversi da casa? Largo ai giovani, i giovani li vanno e posso stare anche ore e ore, certo, lì fino a mezzanotte, a una, certo. Già me la guardo la televisione, più tardi la scendo me la guardo la televisione. Vai, ma. Ehi, Antonetti, volevo dire, a proposito di questi neri, vabbè, negri è dispregiativo, si dice neri di colore, come lo chiamano. Nel secondo sottopiano avevano affittato una di quelle case ai neri, no? Qua nel palazzo, noi l'abbiamo avuti. E francamente ti devo dire che erano molto più cordiali ed educati di alcune persone nel palazzo, capito? Salutavano sempre, capito? Invece qua nel palazzo c'è della gente che si crede un padre eterno, capito? Ti salutano quasi con sufficienza, capito? E quindi molto più educati loro, molto più cordiali. Io lo so, dove abitavo io già ne ho visto lì, voglia, anche negre, nude, salire e scendere. I nigeriani solo fanno schifo, perché sono una razza che voglia prendere i fuggiti. e gli altri se ne garrisono in gamba, ti danno anche il cuore, ti danno, capito? Ma e basta, i geriali vogliono pigliare dei parati. Sì, sì, sì, questi erano del Senegal, erano commercianti, c'erano le bancarelle, poi i senegalesi si vengono per delì, sono violenti, sono, sfruttano la prostituzione, sfruttano il traffico di droga, violentano, capito? Proprio una diversa, non lo so perché questa diversa, questo diverso modo di fare, probabilmente al paese loro è un paese violento, capito? Se è un paese violento, naturalmente come fanno a casa loro in Senegal, ma in Nigeria fanno qua, capito? I senegalesi invece erano colonia francese, li avranno, diciamo, abituati bene a fare da bravi, perché i francesi già sono abbastanza, già lo sai, i francesi essendo colonialisti ci andavano con la mano pesante nelle loro colonie, capito? Così come ad Algeri. Io lo so. Allora Gianmarie, riprenditela. Racconta qualcosa. Mi sto guardando, aspetta, tutta la sera c'è quel ponte crollato a Genova, aspetta, ci sono già 32 morti, e ancora ce ne saranno, boh. Guarda, quello che è lungo quanto quello che c'è a Chizzo, di monte, se li va la visto, non sai quanti ne trovano giù. Oh, qua siamo 300-400 persone, perché tra camion e tutto quello che ci passa lì. Comunque se si guarda bene il filmato l'ha beccato in pieno un fulmine quel ponte, quindi evidentemente l'ha beccato in un punto debole, l'ha aperto in due, capito? E per forza l'ha levato. Marco. Ehi, a Gianmarie, scusa che mi ero spostato un attimo sui canali alti. Vedo che propagazione zero sui canali alti. Non ce n'è. E così non puoi fare nemmeno di ex, a meno parlare con l'Italia. Siamo proprio in un buco nero. E hanno detto che comunque il picco solare massimo che ci sarà fra vari anni sarà blando, non sarà forte come era in passato. Si sta un po' attenuando là il numero di macchie solari, che sono quelle poi che favoriscono la propagazione in 27 ed in tutta HF, mi pare. Ma oggi proprio negativo, è nulla, nulla ho sentito a nessuno. Ieri a cena, ma oggi no. E gli ex, sai cosa fa gli ex? Oh, sono finiti quei tempi. Qualche volta così, come mi senti, quando ti arrivo, e ciao, e cosa vuoi fare? Oh, non c'è più voglia io, cazzo, nemmeno di chiacchierare, mi sacco subito. Magari tu ci avrai più pazienza e più voglia. Io non ho più voglia di farmi le chiacchierate fuori, capito? Certo, sì, dovrebbe dire qualcosa in più, tipo le condizioni di lavoro, quanti watt, che antenna, al limite che apparato, almeno intrattenere un minimo di comunicazione, se no davvero, quanto ti arrivo, quanto mi arrivi, ciao, così è brutto. Poi di solito tra italiani si attacca a bottone, come il tempo, la voi, le solite cose, magari ovvie però, vabbè. Sono finiti questi, ma anche dall'altra parte, non è che ci tengono, ma c'è sempre qualcuno magari che vuole l'acqua e selle, ma sono in poche volte che ho sentito qualcuno chiedendo l'acqua e selle, capito? E poi adesso a me mi pesa troppo la penna, come fai a scrivere? Oh no, no, sbaglio sempre, che è meglio non scrivere. E uno mi ha mandato una volta, mi ha dato la sua email, pensa, l'email ha dato in frequenza, no, vabbè, l'email può essere pubblica, conosciuta anche da tutti, e mi ha mandato una cartolina sua e io ho contraccambiato. Ho messo tutti i dati, l'apparecchio, che antenna, quanti watt, e gli ho mandato la foto di, aspetta, cos'era, tipo una torre antica, sai, quelle torri che trovi sulle località costiere, no? Hai capito? E vedo che qualcuno lo fa, però io una cosa non l'ho capito. Una volta si usava il P.O. Box, che era una casella di posta, no? Il P.O. Box, ma non ne ho più sentito nominare, non ne ho più sentito parlare di P.O. Box, giusto? No, no, è da parecchi anni che non ne parlano di P.O. Box. Puoi immaginare che anche da parte loro non c'è più, boh, non lo so perché, ma anche noi, io l'ho avuto sempre il P.O. Box, per cui gliene mandavo, e ne ho mandato parecchi cartolini, e cartolini anche di sugo l'ho mandato parecchi, però adesso basta, sono un bel anni che non scrivo cartoline, capito? C'ho anche le QSL io, ancora l'avrò almeno una decina, l'avrò più, si può immaginare. Ma non ne mando, no, assolutamente, non mi interessa, l'ho capito. Sì, non c'è più il tanto. Anzi, adesso che ci penso, io tanti anni fa, ai tempi d'oro, l'avevo mandato una cartolina di sugo con tutti i dati, capito, l'apparato, l'antenna, e quello non mi ha risposto, capito, ha voluto la QSL e non me l'ha rimandata lui, però, è così, allora, inutile. Ci sono anche quelle, più di una volta anche a me me l'hanno mandata e non gli ho ritornato, assolutamente, capito, varie volte, capito, e magari il primo periodo, io e Mario stavamo anche alle 4 e 5 di mattina facendo gli ex, e Mario aveva preso anche le coppe, si è fatto anche le coppe, ma che i miri davo a Mario, e Mario mi sembra che ci aveva 5 o 6 coppe da questi gli ex, capito? Eia, Mario Mao, mamma mia quanto tempo è passato. Io mi ricordo che ero bambino, ma anche piccolo mio, avrò avuto 7 anni, e me lo ricordo al Banco di Sardegna in Piazza Castello con tutta la divisa, l'M12, cioè io mi ricordo chiara questa cosa, che avevano quella specie di mitraglietta beretta, mi pare schiami M12, MP12. Poi invece alle guardie giurate non gli hanno dato più mitraglietta, solo armi corte. E adesso c'hanno armi corte, capito? Le magno adesso c'hanno. Ma le paratici, i paratici. A Mario l'aveva comprata lui la mitraglietta. E infatti era sempre lui e Nino Scandola Sole, se ti ricordi, erano tutti e due che uno faceva la mattina il giorno e l'altro la notte, oppure viceversa. E tutto invece, cioè, Scandola Sole aveva solo la magno, Mario Sole aveva la mitraglietta. Ah, naturalmente, siccome quello è armamento da guerra, a raffica, no? Mi viene un dubbio. Non so se era raffica, cioè se sparava a fuoco automatico, però so che esisteva anche l'M12, MP12 anche a colpo singolo, cioè devi premere il grilletto per sparare ogni colpo, che è diverso da quello automatico. L'automatico tieni pronto il grilletto e spara a raffica. Non lo so come erano le leggi in quegli anni, non lo so, ero troppo piccolo. Ma in realtà non mi ricordo neanche io, ma mi sembra che erano automatici, semi automatici, boh, credo, se l'aveva venduta a un altro guardia notturna, l'aveva venduta, poi voi riuscite anche la rete, magari prima potete avere anche 10 pistole o mitragliette, perché dopo uscite la legge più di due non potete tenerne, capito? Hanno cambiato legge e poi non so come è andata a finire. Ahia. Bene, caro Pomponio, noi domani siamo fuori, siamo in campagna. Sogniamo domani, campagnanti. Stasera potevi uscire, si sta ancora così, domani ha segnato Berieva. Domani acqua al nastro. Ma noi siamo al chiuso. Noi andiamo da mia zia, ma siamo al chiuso, non siamo all'aperto, no? Mangiamo al chiuso, ci mancherebbe. Poi se il tempo è bello stiamo in veranda, mangiamo in veranda, se capi? Non stiamo mica alla pioggia, no? Non siamo scemi. Ah, meno male. Io perché ancora c'è il vento, c'è maestrale, il tempo meno male sta tenendo, se no stasera i candelieri li voglio vedere se dovesse fare una bella passata d'acqua, li vedi gente fuggendo. Beh, quello è per chi va in pinezza, a mangiare in pinezza, sì, certo, se si mette temporale bisogna fuggire anche in fretta, perché in pinezza è pieno di alberi miei, possono anche attirare i fulmini. Allora, per quello, in pinezza come andare con la ruota, sei meglio, se ti sei coperto, meno te ne dentro e non ti succede nulla, ma se sei fuori, per tornare in mezzo al temporale, già te, meglio nulla, meglio nulla. Avanti, Giovanni. Un tempo piaceva parecchio andare a mangiare fuori in pinetta, ma adesso nemmeno in campagna, no? Oh, prima scendevo, anche in estate, me ne scendevo anche 15 giorni quando andavamo in ferie, e per cui stavo anche 15 giorni. E arrivavamo solo per fare la spesa e di nuovo giù. Però dopo ho cominciato in estate magari, e siccome a casa c'era troppo caldo si scendeva in campagna, si cenava e dopo l'uno o i due si risalivavamo e così via. Però adesso regando non si vede niente, no, scendo solo e basta, così tanto a fare un po' di frutta, ma a coricare no, non è possibile. Poi dai, c'è caldo qua, dobbiamo mangiare in campagna la stessa cosa, perché quando c'è caldo qua c'è caldo anche in campagna, anche se sei libero, l'aria aperta lì, però il caldo c'è. Poi facciamo te che sono una vallata, per cui non saranno soffici quei tempi, Marco. Va bene. Poi vediamo se entra qualcuno. Domani naturalmente abbiamo purtroppo la cognata di mamma, che non è che proprio vadano d'amore d'accordo, però come diceva nonno, facciamo buon viso al cattivo gioco. Ci sopportiamo, insomma, dai. Allora andiamo a supporto voi. Sono a casa tranquillo, dove vai, gatto? Se puoi mangiare questo, non puoi mangiare quell'altro, gatto, non puoi bere, tante cose, capito? Poi non va bene, no. Qualche volta mia andiamo, ci invitano a pranzo, così o andiamo a pranzo, però solo a pranzo, la notte non mi va più, capito? Sai quante volte me lo dico ai miei figli, io là, non ci vengono e non ci andiamo. Adesso bene a casa, vai a Torino. Sei diventato fatto folaggio, sei diventato. C'è qualcuno lì tanto però sotto che fischiava, mi pare. Se vuole entrare avanti. Forse la voce dovrebbe aver se riusciva su modulati, ma non ce la fa. Cava, anda bene. Oggi c'è il vento, mi sta bene. C'è maestrale, c'è un bel freschetto in casa. Oh, Antonè, sul canale 1 PMR Io li sento forti perché sono vicino, c'è tutta una catena, la catena di PMR che segue i candelieri. Ho sentito uno che chiamava tutti gli altri, no? Salve Itali, gruppo, che ne so, i mestieri vari, adesso non mi vengono. C'è una bella, è così alla cavalcata, io mi passano proprio vicino e li sento bene. E quindi oggi c'è attività. Poi mi chiedo se siano volontari oppure altre persone, tipo vigili urbani, che per comodità non usano le radio di servizio, perché sarebbe un macello occupare il canale di servizio per queste cose. Usano anche loro i PMR, capito? Spero che usino i subtoni almeno, perché se no, se entra qualcuno, potrebbero interferire, potrebbero sentire altre comunicazioni, ma... E comunque i vigili urbani non li hanno i PMR, già sto dicendo. Evidentemente sono... i gruppi ci hanno comprato, magari quei brondi, e usano quelli, capito, per poter far scendere un gruppo per volta, anche da distanza, capito? Se no magari in tutto caso da vicino si comprende manco. Oh, poi Antonè, naturalmente, siccome hanno cambiato le radio in digitali o tetra che sia, può darsi che abbiano più canali, con i canali digitali o quelle linee là sono diverse, magari hanno un canale normale di chiamata e poi canali secondari da usare per piccoli servizi, questo io non lo so, lo sanno solo loro. No, mi risulta, conosco una vicinessa io che... tutti i giorni qua, cosa fanno? Sono in due, sono a vicino, siamo con quello che guida l'ATP, il camion dell'ATP, in pratica ammacciano il carrozzetto dietro e questo qua vicino ammacciano il carrozzetto dietro, capito, vanno a bere verso mezzogiorno e poi la sera verso le 7. Vabbè, ma dubito la VG, se la vigilanza conosca i dettagli tecnici della radio. Loro magari hanno, premo tasto 1 e vai sul, magari sul ponte principale, tasto 2 vai da un'altra parte, ma... non credo che conosca i dettagli tecnici, dai. Io sto dicendo, io ho fatto vedere il PMR, mi ha detto che non ne hanno, non usano questa roba qua, dice che hanno un'altra radio, infatti gli hanno visto, cioè, stanno usando Motorola, però no, non è PMR né cose, è digitale, basta. Poi rilancio a Gio Maria, no, perché ho letto su alcuni forum che in base alle città, per non intasare i loro canali, le radio di servizio, si pigliano il PMR, si cercano un canale, si mettono sul bottone, almeno spero per loro, e lo usano così per piccole tratte, capito? Non ha senso usare i ponti per parlare da lì a 100 metri, a 200 metri. Ebbè, le capisco. Vai Gio Maria. Un attimo Marco, sto parlando di verticale, io rientro dopo. Sì, già usano parecchie marche. Una volta ho intravisto, c'era stato un incidente vicino, c'era una radio di vigile urbana dentro la macchina, era tutta di quelle, tutte a tasti, tutta digitale. Sì. Io mi ricordo che negli anni 70, inizio 80, c'avevano quei portatili che erano dei barconi, sembravano quello schifo di... sai, l'estetica era spartana, no? Sembravano quegli apparecchi con i contraves, con le rotelline sopra, mamma mia che roba brutta. Adesso c'è un'altra roba di ultima generazione, caspita, display LCD, tutte tastiere retroilluminate, d'altronde. Beh, hanno cambiato, sì, prima si sentiva tutto, si sentiva che quando andava a fare l'aspetto dal colletti, capito? Tu la mattina ti trovavi tutti ammacciati, tutti si nascondevano, andavano a cercarli, stanno lavorando, sì, al bar. Vabbè, anche loro si devono ogni tanto... insomma, non è che uno non può stare 8 ore di servizio o quant'è senza bere acqua, no? poi se non è acqua e birra va bene lo stesso, basta non eccedere. Sì, più che acqua e birra, capito, figurati. Bene, ma oggi sta bene però, oggi sto meglio in casa. Sì, c'è un'arietta qua, vedo muoversi le piante, tutto aperto, c'è anche il ventilatore a soffitto, quindi ho già mangiato da molto prima, quindi sto bene. Allora, cosa fare oggi? Cosa mi sai? Sento quelli del coso, del carbone. Ah, il canale 3 per caso, mi pare c'è il canale 3. No, canale 1. Sono anche Brondi di marca, si sente il bip di Brondi. Capito? Lo senti, a volte arrivano bene, a volte arrivano bassi. Meglio. Comunque noi siamo stati gli unici a avere il privilegio di usare le radio digitali, PMR digitali. E sarebbero i PMR digitali. Allora, la cosa ho provato quei due a vendere, ma non li ha presi. Adesso dopo devo andare, mi sono dimenticato la ripeto istruzioni e devo andare a prenderlo. Qui agenzia. Se no, se da ripeto non serve a nulla. Pace e bene a tutti. Ciao Gianfra. Stavamo sentendo comunicazioni sull'uno, ma siccome su qualche forum ho letto che nel resto del continente alle volte i vigili urbani certo non usano ponti per parlare a 100-200 metri per piccole tratte, e qualcuno li conosce e ha detto che usano anche i normali PMR omologati. Qua sull'uno c'è attività, ma magari sono solo volontari, stanno assistendo i candelieri. Vabbè, dai, buona serata, ben entrato. Sì, ma sull'uno PMR ovviamente, giusto, c'è Antonello, ciao Marco. Ciao Gianfra, sì, sull'uno PMR, vabbè, io sento qui di della... dell'Aeon, che altro, perché li sento bene. Marco invece ascolta quello che c'è vicino a lui. Quindi in teoria anch'io vedo per ascoltare. Credo, boh. Io già li ascolti anche tu, già arrivano forte. Sull'uno, intanto qua, ti si incerta il coso del carbone. Carica di più, no, carica di meno. Apri la valvola. Chiudi l'acqua. Sì, c'erano anche gli idraulici, se per questo. L'altro giorno ho sentito due idraulici che stavano parlando, stavano facendo un lavoro e poi c'erano quei geometri che fanno le misurazioni adesso, lì, per strada, figurati. Prima usavo la parecchia sulla 27, adesso sto usando i PMR anche loro, tutti c'hanno i PMR, compresi anche le ditte tipo Carfu, ascolto tutti qua, figurati, in Italia ce l'ho neanche a 1,5 km, è da niente. Io dovrei ascoltare abbastanza bene, perché la città è tutta ottica, quindi anche col gommino, per quanto bassi possano essere la vita. State dando dei digitali, ma cosa sono? Come Gianfra? Ho sentito che state vendendo dei portatili. Come sono? Ah no, Antonello sta vendendo il Baofeng 888, giusto Antonello? E via, DS888, ne ho due. Memorizzati 8 canali PMR e 8 LPP. Invece Marco c'ha i digitali, però non so se li prenda. Dovresti chiedere a lui. Li abbiamo provati assieme, li ha comprati, li abbiamo provati e li abbiamo usati 3 volte, non di più. Ho capito, ma sono tutta roba giocata. Beh, pur sempre digitali, già lo sai la marca qual è, i Polmar sono. Beh, la loro funzione la fanno, solo che anche rivenderli sono invendibili, cioè nessuno è interessato a quel tipo di articolo. Fanno prima a prendere i prondi, prendono la coppia. Comunque non stanno parlando, Gianfra, sull'uno è tutto vuoto adesso. Sicuramente prima hanno preso, hanno dato le posizioni, e boh. Comunque sono lì, se parlano li sentirai. Vabbè, avranno parecchi omologati, non credo che anche loro abbiano PMR a 5 watt, no? Chi lo sa poi. Non è così. Ma tanto qua è un automatico, quindi se parlano li sento di sicuro. Ciao autore, buonasera, anche tu, niente candelieri, hai fatto bene, anche noi siamo del tuo stesso pensiero. Oh, se ci salgo verso le 10:30, 11. Cattano Sogumaku. A tirare le uova marce al sindaco? E siccome non c'è il cordone, tutto di poliziotti, carabini e vigili urbani, e mi sa che li conviene quest'anno. Un discorso già fatto ieri. Sì, comunque, naturalmente, Gianfra, sì, in paragone a Motorola, quelli professionali sono giocattoli quelli. Sono cinesi, dai, sono i Luiton 9908, mi pare, o 9909, alias, hanno un'altra marca anche. Rimarcati Polmar, peraltro ho notato l'altro giorno che sul catalogo Polmar sono usciti di catalogo. Sono proprio usciti di catalogo, esistevano dal 2013 e quindi dopo 5 anni di vendita li hanno tolti dal catalogo e sono sicuro che a breve non si troveranno nemmeno più le batterie di ricambio, quindi se conti che non esiste un battery eliminator per quel tipo di radio è proprio roba usaggetta. Sì. Buonasera, sore. Capita anche quello, se non sono marche grosse, non trovi più niente. Ma io quando ero tu, io trovo la bene ancora con un portatile, da qualche parte, ma è fuori, come si dice, a parte che è fuori produzione, ma è fuori, ma non mi viene il termine. Comunque è digitale lo stesso, cioè benissimo, funziona benissimo. Però è fuori mercato, dai, non si usa più. Allora, vedi? Allora, la Polmar, facendo il Polmar Easy, che è analogico, è anche un bel PMR, sempre della fascia di, sempre meglio di Brondi, di quella roba, è dotato di una batteria a litio e inoltre gli danno una finta batteria vuota dove tu metti le stilo o i mini stilo, non mi ricordo, per cui anche se un domani non trovi più le batterie puoi sempre mettere o pile o stilo ricaricabili e ti funzionerà sempre quel portatile. E l'hanno fatto solo con quel modello che io ricordo, il Polmar Easy. Buonasera. Buonasera signor Giulio, alla fine vedo che i candelieri non vedo di nessuno. Cosa vanno a parlare i candelieri? Ciao Marco, ciao Tore, poi Gianfranco e Antonello. Si prendete, no, sono anni io che non vado più a vedere i candelieri, saranno 20 anni, 25 anni anche, senza che io vado a vedere i candelieri, cosa ci vado a fare? C'è una stretta storia. Magari, ma stare lì tutta la sera, noi facciamo perdere, facciamo la manifestazione ai turisti. Avanti, Gabba. Sì, buonasera Giulio, ben ascoltato. E quindi mi sa che saranno tutti stranieri che ci guardano, dato che siamo tutti rintanati. Così. Riprendi Antonello. Sì, aspetta un attimo, vengo subito. Comunque, a parte qualche negozio tipo come Macro, quel negozio che vende un po' tutto, in cui commessi hanno il PMR alla cintura, qualche negozio di scarpe che c'è da Auchan, come si chiama? Quel negozio di scarpe alla moda, non mi viene il nome. Ho visto che Lidl, diciamo, è molto più avanzato, ne avevamo già parlato Gianfra, usa quelle cuffiette con microfono che lavorano, mi pare, a 1000 e più, ce l'avevi detto tu, 1000-2000 MHz, tutto digitale. E Antonello si era stupito che non riusciva a beccarli, credeva che fossero PMR quelli col microfono cuffia, invece ce ne avevi parlato tu che era roba più evoluta. Sì, sono una sorta di mini-zello, capito? Sono apparati di rete in realtà, che comunicano tipo Bluetooth, da, sono sui 2GB 4, 2.5, e servono proprio per quei servizi che sono vicini, che non vogliono essere turbati, non li ascolti perché sono fortemente criptati, poi sono in digitale, capito, quindi non si sente un tubo, senti il rumore e basta, poi hanno un raggio molto corto, tutto lì. Invece guardati questi apparati che stanno, che qua ancora non si trovano, perché in effetti sono dei telefoni, guardati lì, si chiamano Enrico. Mi hanno parlato adesso, eccolo qua, mi inteso hai, non si sente, cioè non si sentono a 100 metri questi, è allucinante. Aspetta che prendo lo smartphone che era in carica e poi mi ridici la marca, arrivo subito. Riprendi, Tore? Ehi, io ho messo sull'uno e non li sento per niente. No, non arrivano, sull'uno no, qui non arrivano, vabbè. Ehi, vabbè, senza volontari, magari, da dove c'è la festa, arrivare qua non è semplice. Sì, in effetti tanti dipendenti anche di Auchan ce l'hanno, perché ho visto che si chiamano da reparto tra di loro, poi su quale frequenza la vogliono, quelle radioline, non lo so, però c'è tanta gente che li usa, tantissima gente. Vabbè, Marco, si rientra? Sì, ecco, ho portato lo smartphone, ha finito la carica. Sì, da Auchan hanno questi simil cellulari o simil cordless che non so cosa sia, lavoreranno in una rete interna oppure sempre qualche gigahertz, tutta roba criptata, poi quindi è finita l'epoca dei ricevitori. Invece quelli che fanno portierato da Auchan hanno delle radio a parola, mi pare, alla cintura. Infatti l'altro giorno me ne stavano uscendo gli occhi, era con la bava. Allora Gianfranco, dimmi questa marca. Sì, la sicurezza c'ha il Motorola, sono dei PMR Motorola classici, diciamo, senza tastiera, senza niente, perché è più economici. La marca si chiama Enrico, perché è stato attaccato, non Enrico, ecco, la Enrico, credo che sia TV7, Enrico TV7, ma c'è anche il TV8, eccetera, quindi se metti quella marca ti appaiono. Ci puoi mettere, cioè comunque metti, non ti esce di sicuro. In Italia mi sa che non sono neanche commercializzati. Sì, allora ecco, ho aperto la pagina, sto guardando immagini, allora Enrico su 409 shop li vendono, cioè sul sito cinese, possibile. Ecco le forme, comunque adesso faccio la battutaccia che faccio sempre, e comunque è giusto che le guardie giurate vi dia roba semplice, senza tastiera, senza CD. Come dico sempre, quegli apparati semplici sono proprio a prova di guardia giurata, capito? Che devono solo premere e parlare. Perché tanto poi certi non sanno nemmeno le frequenze di lavoro, non sanno se sono in chiaro, in digitale, loro premono e parlano. Poi, capito? Può essere offensivo anche questa affermazione. Apparecchi a prova di guardia giurata, come dire che sono tonti. Papà, avevo visto uno di quei parcheggiatori che ci sono lì, diamo un bel freghetto? E che stava parlando lui alla radio, pronto? Che cosa stessero dicendo? Però secondo me stavano parlando tra di loro, magari da parcheggiatore a parcheggiatore, appartenente magari alla stessa compagnia, e stavano dialogando tra di loro. Poi chissà che cosa usano, di solito tutti usano il PMR, è il più semplice, facilmente reperibile, ma se non vuoi sentire altra gente di fondo metti un subtono analogico digitale, come facciamo io e mamma quando ce lo portiamo dal San, però stare sempre a pigliare il telefono, no, che reparto sei, sono qui, sono alle casse. Portiamo il PMR con un subtono analogico, francamente, digitale, manco li abbiamo mangiati, in modo da non sentire anche il ronzì di fondo, perché lì tra luci, neon, led, sta roba elettronica lì, ti si sblocca lo squelch spesso se non hai il subtono. No, mi ero sbagliato io. Allora, sto leggendo qua, Gianfra, Mobile Network Radios, Enrico, TM7 3G, Wi-Fi, IRN, Mobile Network Radio. Esatto, è quella. Se guardi è finissima. In realtà sono praticamente dei banalissimi smartphone trasformati in radio, che hanno copertura totale ovviamente, quindi tutto il mondo. Per semplice motivo che viaggiano via internet, quindi o c'è un wifi vicino o usi la scheda GSM o MTS e rimane in contatto, però francamente spendere 100-150 euro per uno che in realtà ha uno smartphone, anche se c'ha la forma di radio con tanto di microfono, non mi sembra il caso. Utilizzano Zello, poi altri, insomma, quei protocolli lì tipici del radio network, dai. Quindi niente di sconosciuto. Però, insomma, ti permettono di essere collegato dappertutto, perlomeno dove c'è campo. Sì, infatti c'è scritto, non so, Android compatibile, eccolo qua, aspetta che aumento la luce, non si apre la, eccolo qua. Sì, vedo il tasto più 1, più 2, più 3, più 4, più o meno, poi c'è un tasto, già vedo icone Play Store, ma vai, cioè, ma hanno fatto delle radio, chissà quale costo, alla fine tu usi Zello per l'Italia, usi WhatsApp e parli dall'altra parte del mondo come una spezza, così è. Sì, in pratica sì, però serve per far finta la cosa delle radio, tieni presente che comunque sono valide, hanno strutture particolari, resistenti, eccetera. E il discorso invece che ho fatto a Giulio, credo, proprio della semplicità, è quelle radio dalle Motorola, ad esempio, che hanno quelle da, o dalle guardie giurate, compagnia cantante, non è tanto il fatto che è perché sono pronti, ma è essenzialmente perché fanno un lavoro in cui se ti dice passi sul 2, passi sul 3, passi sul 4, passi e semplicemente non c'è bisogno di, hanno due manopole e se quelle devono fare, l'importante è che quelli gli apparati è che si scadano a terra e se li calpesti eccetera continuano a camminare, cioè a funzionare. Ehi, allora una battuta rapida, no, non una battuta, conoscevo questo ragazzo, no, che lavorava come portierato, aveva un ICOM, mi pare che addirittura avesse solo il volume e poi aveva un selettore con un pirulino, una manopolina, canale AB, canale A, canale B, è proprio a prova riguardo a giurata, lì non può sbagliare. Due canali, non mi ricordo il modello, guarda, non me lo ricordo. Ore, cosa mi stavi dicendo degli apparati che mi è sfuggito il discorso? Cos'è Marco? Mi stavi dicendo degli apparati, mi hai detto non è così, dimmi che mi è sfuggito il discorso, che sono andato a pigliare lo smartphone e mi sono distratto. Ha detto che quelli apparati che stanno usando sono quelli in coppia, non possono usare quelli là, hai compreso, che c'è la polizia postale vicino, sono da molto, dalla processione che li stanno cercando. Oh, li stanno cercando addirittura, per cosa? A meno che comunque avevo già fatto, io ho sentito questa affermazione su Roger Cap, ha scritto che forse da chi ha conoscenze, che le forze dell'ordine qualora usino i PMR volgari, i PMR 446, no, quelli nostri, quelli di uso volgare direi, non sono obbligati a pagare la tassa, cioè sono dispensati proprio per il servizio che fanno. Sai, per esempio, collegamento da posto di blocco A a posto di blocco B un po' più avanti, ti risulta? Stanno usando quelli in coppia, stanno usando loro. E sono tutti come in frequenza in PMR a canale 1. Però 3-4 canali possono usare. Però con quelli non gli fanno nulla. Te l'hanno già detto di usare quelli lì. Ecco cosa è. Perché li stavano cercando quegli altri che stavano usando, tipo quelli che stiamo usando noi, e non si possono usare. Ah, il Baofeng, farci vedere col Baofeng in giro al colmo, guarda, solo Pomponio sarebbe capace di una tale cosa. Vabbè, peraltro Pomponio si sedeva al bar con tanto di gente seduta, con tanto di vigili urbani che andavano e venivano, col Baofeng, con la selettiva a tutto volume. Roba da codice penale. Vai Giulio. Vabbè. No, ma quello che è meraviglioso è che tutti che parlano del PMR, nessuno parla dell'LPD. Strano però, perché 7-8 anni fa, 9 anni forse, era molto diffuso anche l'LPD, non è vero, noi l'avevamo usato per un bel po' di tempo, ma addirittura parlava anche con quell'amico di Genova, che era Liguria perlomeno, lui ci ha chiappato con la direttiva, e nessuno si lamentava, tutti erano contenti di parlarci, anche con Gommino, noi con Gommino, lui con questa antenna direttiva la puntava verso la Sardegna e ci acchiappava, magari la luce riusciva a prendere il collegamento. Certamente lui, però anche noi riuscivamo a parlare con lui, non lo so, claro, anche perché la frequenza dell'LPD è un po' più lontana anche da quella dei radioamatori, trattandosi di 433 anziché 466, non lo so, ho già fatto, ne sai qualcosa? No, dunque, la frequenza LPD è in piena gamma radioamatori, perché la 433 è tutta radioamatori. Infatti non lo so se ancora si possano usare, perché pur essendo in fatto secondario ci sono anche altri servizi, quindi l'idea degli LPD è stata un'idea proprio folle praticamente. Quindi non lo so, non credo che si possano usare, credo che li abbiamo puliti. E niente, ci sono i PMR che hanno 500 mili e vanno più che bene, anche perché adesso si possono usare quelli digitali, quindi c'è 16 canali. Appunto, ma quando è che avete la pena 100 mili va sui familiari, dunque anche meno potenti, ma insomma comunque. Che ha detto che li abbiamo usati noi, non ricordo benissimo, non ricordo, c'era questo amico da Genova, voglio qua, non so se l'avete mai sentito, e noi parlavamo con lui, con Gommino, anche dalla strada, e tante volte, una notte, riuscivo a far buttare la moneta di Cassoni, che allora c'era Cassoni, poi no, oggi c'è la tendenziata qua, ognuno di noi, ha il suo biloncino, e mette davanti alla porta, e poi passa la partita del mio. Appunto dicevo, quando ci volevate mi collegavo tranquillamente, ma solo io, tutti e stati si collegavano con questo amico di Genova, tranquillamente, lui era il motore, si chiama Marco ed era da Imperia, se non ricordo male. Sì, ci ho provato tante volte. Un gommino, lo stesso, ma c'ha delle direttive e da paura. Sì, ma lui diceva, lui buttava la direttiva verso la Sardegna ed ecco che acchiappava. Ma io sempre anche ero entrato, la sera mi ricordo, dopo pranzo, sono arrivato su in terrazzo, lo chiamavo e lui rispondeva tranquillamente. E sta cucinando la lì, che è entrata al lavoro e sempre chiacchierando con lui. Due fino alle tre o quattro, qualche volta anche tre e mezza, e facevamo lunghe chiacchierate. Sì, Marco si chiama Marco, forse è vero. Va bene, tu prendi, Marco. Eccomi. Avevo letto una cosa recente, solo che forse 2015, che dice che si potevano usare tutti i 69 canali. Vabbè, però sai il fatto qual è, Giulio? Guarda, sull'1PMR un attimo fa hanno detto non ti sento, saranno a 200 metri questi e non si sentono l'uno con l'altro, magari con 500 milliwatt, quindi con 10 milliwatt, perché tanto chi fa quei servizi, un apparato viene, cioè uno usa apparecchi omologati, no, se va in strada a fare i servizi, cioè se già non si sentono con mezzo watt, tanto meno con 10 milliwatt, poi vabbè se uno usa 4 watt o 50, quello non è più LPD, è un'altra cosa, diventa già un'altra cosa. Va bene, comunque ti dirò Gianfra, sarà praticamente uno smartphone che usa Zello, che sa, però è intrigante l'aspetto, perché praticamente c'hai uno smartphone, c'è praticamente uno Zello, un WhatsApp che ha la forma della radio, è accattivante la cosa, Allora ho visto questo modello che ti ho detto prima, veicolare, costa 251 euro. Un po' caro mi sembra per essere un cellulare. Sì, guarda, con uno smartphone va lo stesso bene, l'unica cosa di questi sistemi è che hanno una latenza quando c'è molto traffico terribile, quindi la voce ti compare dopo un bel po', però considerando che puoi parlare con l'altro capo del pianeta senza mettere antenne, senza mettere niente, dai, ci sta. Sono tantissimi canali, però anche quello mi sa che sopravvive attento, perché c'è poca gente, a parte in CB magari, che c'è qualche camionista, eccetera, ma poi non è così trafficata, e va bene che siamo anche in un periodo un po' così, un po' strano, magari l'inferno c'è più gente. Non so chi l'ha provato qua, tu Giulio l'hai mai provato Zello o qualcosa di simile? No, non l'ho provato, non so nemmeno come può essere, non lo so assolutamente. Tu Marco stavi dicendo che quindi a 200 metri non si sentono ancora il PNR, ma in effetti se non c'è visionalità non è possibile. Perché se non c'è visione ottica, con le frequenze non serve niente. Poi magari c'è qualcuno fortunato, come me, ad esempio che io da questa zona sono riuscito a parlare con la Corsica, tanto per dirne una, per cui ho il tuo discorso. Però se c'è un minimo ostacolo senza farlo, sai, non farlo. Sì, con gli apparecchi omologati sì, poi lì c'è l'antennini anche in certi brondi e sembra quella mollettina che c'è in quelle penne che hanno il pulsante, no? Prendi il pulsante e c'è la punta della penna. Tipo i brondi FX10, FX11, c'è proprio quella mollettina. Poi è abbastanza caricata. Molti PMR di adesso hanno l'antenna bella più slanciata, magari meno caricata, boh. Eia. Comunque per 251 euro, a parte che io ho uno smartphone obsoleto del 2015, l'ho comprato a gennaio 2015 e me era già uscito un anno prima. E adesso sta mostrando tutta la sua orrenda, tutto il suo orrendo limite. Io ho già preventivato, entro 6 mesi di pigliare uno smartphone. Vorrei un medio gamma da 250 euro. mi stava piacendo il P-Smart Plus della Huawei, sempre se non esce qualcosa di meglio. A me francamente di uno smartphone non me ne frega dell'estetica, mi interessa l'autonomia, l'autonomia e che non sia troppo lento, insomma che vada bene. Oh, poi Gianfra, sono curioso di sapere che cosa ci hanno messo dentro a queste radio, cioè che smartphone ci avranno messo, uno Xiaomi, come si chiama, che smartphone cinese ci avranno messo dentro, uno buono oppure un carraggio? Deve essere qualche apparato così fatto ad hoc, ma tanto non, i componenti sono sempre quelli dei telefoni, quindi non però è esagerato e comunque molto caro. Io li ho visti per me, ci sono anche portatili comunque, quindi se lo vuoi prendere un portatile a voglia, ti fai il gruppo, il canale e parli, quindi non è una cosa abbastanza semplice, non è complicato. E funziona, lo ripeto, sono stra contenta, sopporta la latenza, perché se vai vicino e ti guardi in faccia quello con l'altro, vedi che quello sta parlando, la comunicazione arriva dopo un secondo, addirittura in certi casi. Scusami, così abbiamo fatto con mia zia una prova fianco a fianco, anche su WhatsApp c'era un certo ritardo. Vabbè, quindi questi scendono. Ah, però ho letto una cosa, vediamo. Mannaggia, mi è uscita la pagina. Allora ho letto 3G, siamo già al 4G, fra un po' c'è il 5G, fra due anni. Boh. Non vorrei che fossero anche come hardware superati, boh. Mannaggia, il sito mi si è chiuso, vabbè. Ora riprendi anche tu, dai. C'è Bacchigio che vi sta chiamando. sotto lo coprite. Ma non lo ascoltate? Sì, che lo ascoltiamo, io un po' cazzo, però hanno ripreso e dunque non potevo chiamarlo. Allora che Bacchigio con la buonasera. Caspita, buonasera signor Bacchigio. C'hanno il dittino facile, c'hanno, è per quello, Cosa li vuoi fare? Giovani sono. Bacchi, mi devi perdonare, ma io per non pigliare un po' di corrente elettrico di propagazione alzo un pochino lo squelce. E adesso che l'ho sbloccato ti sento, però bassino, tipo Santiago 5-6 massimo. E infatti, poi da casa, vabbè, sei fortissimo. Siamo a Sassari, niente da eccepire. Comunque Gello, io l'avevo tolto da secoli dallo smartphone perché non lo so, sì, Giulio, Zello era proprio come una specie di baraghino, premevi il PTT che poi alla fine è come parlare con il pulsante di WhatsApp, parlavi e mollavi, capito? E l'altro ti rispondeva, ma alla fine WhatsApp è così. Anzi, Zello, se vogliamo, era limitato, potevi solo parlare, che io ricordi. In WhatsApp puoi scrivere, parlare, inviare, cioè messaggi vocali, inviare qualsiasi tipo di documento, che so, un PDF, una foto, un video, puoi telefonare tramite sarà una rete VoIP, presumo, puoi fare videochiamate, cosa vuoi di più? Vai Gianfra. Sì, ciao Bacchigio, io l'ho sentito solo anch'io togliendo lo squelcio perché se no c'è troppo rumore, non fa. Però anche a me non arrivo a sorte, arrivo abbastanza basso. No, guarda che Zello adesso manda anche foto, documenti, eccetera, quindi più o meno fa le stesse cose. L'unica cosa è che ti sembra un walkie talkie e così via. Ci sono tantissimi gruppi, è usato anche da istituzioni, ho visto carabinieri, vigili del fuoco, che se ne metta. Poi non so se è usato solo così per divertimento, o se è usato anche per questioni operative, ma di questo non te lo so dire, anche perché poi c'hanno le reti dedicate a loro, c'hanno delle cose simili a Zello, però sono dedicate a loro, quindi sicuramente con latenze ben minori di quello che può essere detto. Tutto lì. Quindi puoi fare foto, ecco, con la versione attuale, foto, documenti, eccetera. Tutto lì. Riprendi Giulio. Ok. Sì, io ho su WhatsApp, sì, a parte il fatto che Marco, poi possiamo anche vederci, se telefoniamo possiamo anche vederci per dire, no? Ma a parte quello, io su WhatsApp mi sono creato il gruppo famiglia e ho fatto anche il gruppo baracchino, però non ho mai messo nomi perché cosa consiste? Per dire, non so, mando un messaggio a te, avendo il gruppo baracchino magari con tutti i nomi che io ho messo mi sento con una sola spedizione del messaggio, capito? Senza bisogno di chiamare tante volte. Ad esempio, io accendo la radio, sono sul canale 23, ecco, spedisco a te per dire, o a qualche altro, e lo sento con tutti gli amici per cui io ho elencato nell'elenco della rubrica, capito? Caspita, io Zello, Gianfra, io con Zello l'ho disinstallato roba di 2 anni fa, proprio non l'ho più, a parte non lo trattavo nemmeno allora, l'ho messo giusto per prova, roba di 2 anni buoni, se non di più, che non lo tratto più, e quindi si è evoluto nel tempo, vedi, è una cosa che non sapevo. Alla fine si è interessato a comunicare con molte persone, bisogna usare quello più usato da tutti. Non so nemmeno che fine abbia fatto l'altro, come si chiamava per le videochiamate, non WhatsApp, quello prima, mannaggia, non me lo ricordo, era una cosa simile, scrivere, parlare, illuminatemi. Da Skype, no? Sì, Skype, non so che fine abbia fatto. Lo stesso, avevo tolto anche quello dal computer fisso in questo caso, no? Vedo che tutti usano almeno il gruppo di CB, che poi l'ho preso per il gruppo di CB, coso mi. WhatsApp, se no io sono abbastanza ostile ai social network. Mi sembra tutto un porcaio. Però quello, sai, per mandarci video, foto, basta che sia roba utile, non come qualcuno che mi mandava cose pornografiche, vero Antonello? Lo vedi, non risponde. Avrei tutte via, poi manco poi metti che mamma risponda al telefono, lo apra, vede queste schifezze. Vabbè, già le ho cancellate tutte infatti. Anzi, a dire il vero, ho fatto un repulisti, ho tolto tutte le foto, anche tutte le foto fatte, i video fatti, perché erano pesantini. Ho liberato un po' di SIM, no, come si chiama? Di micro CD. È meglio sempre tenendo un vuoto, perché se no va a finire che si consuma, si giga, si consuma e poi non è più facile. No, io una volta che ricevo un messaggio così, anche se sono fotografie, eccetera, si guardo, poi leggo, se c'è da leggere, è ovvio. E poi mi cancello, e cosa me ne tengo a fare? No, non ne vale la pena, sicuramente. Avanti, Martizio non riprende, si vede che in viaggio sta rientrando a casa. Avanti, Tore. Non riprende perché deve essere già in garage, deve essere. Quindi sarà chiudendo il garage. Ok, sì, invece lo so, la sera quando smette in campagna di lavorare, di quando rientra, accende. No, io già lo sento sempre, la verità, anche se arriva a passo, però lo sento sempre. Stavo dicendo, a proposito, ma l'avete sentito il disastro che è successo a Genova? Sì, l'ho sentito, ma era già annunciato come tante cose, quindi mi meraviglia fino a un certo punto, capito? Lo so, mi meraviglia fino a un certo punto, però c'è una marea di morti e danni a non finire, aspetta, tu sbagliati, in che situazione ci sono trovati con le persone, con un ponte alto 40 km da terra, così improvvisamente a crollare, 200 metri, 300 metri di ponte, cose spaventose veramente, no? Avanti Marco. Ehi, ma come? come mai annunciato? Si sapeva qualcosa? Cos'era di quei ponti di cemento armato fatti con molta sabbia? Ma diciamo che un ponte intanto che era costruito 50 anni fa, 51 anni fa, per dire, però si sa, i controlli bisogna sempre farli. Poi a quanto sera una sorta che passava di un fiume in casa, che cosa trovo? Non si può dire come, per quale motivo è successo questo disastro. Può essere anche qualche scossa di terremoto che l'abbia prima un po' danneggiata, ma non se ne sono resi conto. Che so, purtroppo è successo e si è perso la vita, purtroppo ci sono tanti morti. Avanti, Tore. Quel ponte doveva essere chiuso, 20 anni fa doveva essere chiuso, hai capito? Perché era pericolante, l'avevano detto che era pericolante quel ponte lì. Lì adesso è successo il disastro. Incredibile, ma come si fa? Ma dai quanti ce ne sono di queste lì? Pericoli in Italia, dappertutto, a partire dalla Bassa Italia fino a Nord Italia, fino a Grappi, ci sono tanti di quei ponti, tante strade, anche perché e tante montagne che in pericolo, per carità, ma quando mai si devono fare il contorno? Oh, io un po' per l'Italia, come stanno andando tutti. Avanti, già fa. Sì, tralasciando, diciamo, quelli che sono fatti da la sabbia, come ha detto Marco, che ce ne sono parecchi, e quella è roba di delinquenza. In questo caso la cosa era nota, perché dopo un po' di anni, diciamo 50 anni all'incirca, il calcestruzzo si indebolisce parecchio. Praticamente per risanarlo, per renderlo appena più efficace dal punto di vista statico, ti viene più costoso che buttarlo giù. Quindi quello era già un po' nato male, perché si erano accorti che c'erano dei problemi statici. In più poi ha dovuto sopportare tutto quel traffico di milioni di autoveicoli all'anno, quindi era quasi scontata la cosa. Niente, siccome costa tanto buttare giù e rifare, tu pensa che se l'avessero buttato giù e rifatto da capo sarebbe costato meno di ripararlo. Ma negli altri paesi, negli Stati Uniti, se tu hai notato, buttare a terra i palazzi, certi grattacieli vecchi è normale, perché dopo quegli anni è chiaro che tutte le resistenze, tutti i calcoli che avevi fatto all'inizio non valgono più, anche perché le condizioni cambiano, i materiali invecchiano. Tutto lì è il problema, noi per le solite questioni di soldi, di mafia se vogliamo anche, non le facciamo e quindi è normale, d'altronde ne sono caduti tanti prima, se te lo ricordi anche, c'erano sotto anche i carabinieri che si sono salvati per miracolo. Sì, beh certo, è vero che c'è da dimenticare qualche tempo fa, anche Sardegna, ti ricordi quel ponte che era crollato, appunto, che erano morte 2 o 3 persone, certo per questione dei numeri stati che erano arrivati in quel momento, ma quanto sa che un ponte non deve crollare solo perché c'è il maltempo, ma vogliamo pensare che anche sta essere tu, se ne mangi, se vogliamo prendiamo il nostro caso, ad esempio, un ponte Rosello, che è fatto ieri, dopo 50 anni, ce l'ha fatto almeno 60 anni come minimo, e se dovesse crollare si può immaginare che la sei disastro, ed è un ponte da niente, un ponte piccolo, corto come lunghezza. Questo mi sembra, questo che è crollato lui a Genova, è roba di 1,5 km lungo le vette, una cosa del genere, per cui non è accettabile, ecco, non è accettabile. Tu per guardare adesso il Vialotto, il ponte che c'è nel Vialotto, quello che collega la parte alta di Cappuccini, partendo da Monte Rosello, se dovesse crollare, ragazzi, da quando c'è magari un traffico intenso, che disastro succederebbe, cose che fanno pensare, altro che non è uno scherzo. Avanti Marco. Marco, a mangiare si è andato. Sarà attraverso. Gianmarì, ma se tu pensi, adesso questo qua è un caso tutto particolare di questo ponte, perché tra l'altro era anche sotto controllo, proprio, ma tu pensi stessa, la strada che hanno fatto tra Usilo e Nulvi, dicono che neanche è consegnata, già sta piena di buchi. Beh, di lì un'occhiata non ce la vorrei, non la dovrebbero dare, a vedere chi è e come l'ha fatta. Sì, ma io dico, innanzitutto la colpa io, soprattutto a niente che fanno queste strutture così di una certa importanza. Già decisa, dice noi passiamo e mettiamo questa cifra e la mettiamo all'asta, e chi se la giudica magari facendo un'offerta al signore si aggiudica il lavoro, ma quando si fanno questi lavori qua non si deve pensare al risparmio, si deve pensare a fare le cose come si deve, perché non sono questi lavori che si possono ripetere dopo qualche anno o dopo 10 anni, 20 anni o 30 anni. Sono lavori che devono risultare sempre in eterno, anche per 500 anni, ci mancherebbe altro. Siccome tutti quanti fanno la gara a chi si può giudicare il lavoro, e allora abbassano presto e abbassano anche il modo di lavorare, soprattutto con i materiali, eccetera. Però io lì dico che la colpa lì è soprattutto dei tecnici, perché è un tecnico che ha la responsabilità di far costruire un ponte che poi dopo anni crolla, insomma, non lo so io che tipo di tecnico è questo. Marco, sei rientrato? Sì, vi sto ascoltando, stavo cercando roba in rete, dai. Vi sto ascoltando. E purtroppo in Italia è sempre così, finché non ci scappa il morto non fanno niente. Vabbè, l'Italia sta andando male. Siamo l'ultima ruota proprio l'ultima ruota del carro dell'Europa. Ma avanti. Buonasera, avanti, fatti sentire più forte. E bello ripresi? Va bene, forse sta andando avanti. Ma chi sono? Ehi, non sto uscendo. Ma stai uscendo bene adesso? Poco fa, no? Adesso sì. Dovreste sentire anche gli altri. Tutti sento io sento a tutti, solo a me che non mi sentono. Adesso ci sentiamo bene, dai. Adesso c'è anche Gianfranco. Avanti, bacino per Gianfranco. E ascoltiamo Gianfranco, buonasera, appena ascoltato non posso dire perché ancora non l'ho ascoltato. Bene, avanti Gianfranco. Sì, ciao Battista, adesso ti sento bene. Cioè, per domani il segnale è accettabile rispetto a prima. C'è tanta cosa, in effetti. Sì, prima ero handicappato. Mobile. Prendi il ritorno, mi è mancato. A me stavi cercando Bacchis. Ho detto, mi è mancato Franco. Non lo so. Franco, bene, io vi ringrazio per il questione, dai, ci sentiamo. Io scendo giù per fare compagnia a mia moglie, così facciamo quattro chiacchiere anche con lei. Ci sentiamo le prossime. Ciao Gianfranco, grazie per la chiacchieratina. Ciao Bacchis, Ottore, Marco. Registrato, ciao Giulio, dai, ci sentiamo, io mi sono un po' distratto che sto guardando qualcosa in rete, vi ascolto, faccio venire avanti il break, avanti. Non sono io, ciao Giulio, ti hai sentito, buon di sotto in casa, a domani. Ciao Tore, ciao Bacchisio, c'è anche Gianfranco, avanti Bacchisio. Pure avanti, saluto a Mario e poi chiudo, dai, ciao Mario. Prendi pure Bacchisio e fai girare, vai, ciao, chiudo, buona serata a tutti. Ciao Giulio, ciao. Ok, ciao Giulio, buona serata, buona QRT, allora rientriamoci alle prossime. Ciao Marino, buonasera, ben ascoltato anche per te. Se mettiamo il microfono a salutare a Giulio, avanti. Ciao, le cause della serie, avanti Marco. Eia. Gianfranco c'è anche, almeno credo ci sia ancora. Sì, abbiamo toccato il fondo. Da una parte attrae. Ho fatto una radio veicolare che sembra un VHF, VHF, UB banda. In realtà è uno smartphone, capito? Usa le reti di Zello o forse di WhatsApp per comunicare, non antenna. Abbiamo toccato il fondo, le radio, o è radio o non è radio. Però attira un po' l'aspetto. Guardatele anche su YouTube, Enrico Radios. Si scrive come Enrico, però con la I iniziale, Enrico Radios. Praticamente uno smartphone che hanno fatto da radio e usa lo stesso WhatsApp, Zelle, tutte quelle reti là, voi, come si chiamano, boh. Mandami la foto, Marco, mandami la foto. Va bene, Gianfranco, buongiorno, anzi, buonasera. Sì, buonasera Marino, ben ascoltato dopo qualche anno, direi, perché non ti ho neanche più visto. E purtroppo mi hanno chiamato, quindi devo scappare. Comunque mi ha fatto piacere ascoltarti, almeno per salutarti, Marino. Entro magari un po' più presto e forse ci ascoltiamo più spesso, magari adesso le giornate iniziano a calare. E c'è più tempo per stare in radio. Riguardo a Marco, sì, c'è anche una versione che ha l'UHF comunque di quell'apparato. Il vantaggio di Zello è che è facilmente interconnettibile alle radio, tutto lì rispetto a WhatsApp e compagnia cantante. Quindi c'ha un eccellente Vox, c'ha insomma tante belle cose che ti permette di fare dei cross link cosiddetti per aumentarne il raggio d'azione. Tutto qua, devo scappare purtroppo, vi saluto tutti, buona giornata, cioè buona serata oramai, buoni candelieri per chi fa vederli. Riprendi Bacchisio, ciao a tutti. Ok, ciao Gianfranco, buona serata, grazie della piccola chiacchierata, a risentirci alle prossimine. Vai Marino. Benissimo, ciao Gianfranco, hai sentito, hai pronto, bella, adesso già ci sentiamo per un passo. Bene, avanti Tore. Ehi, ma poco fa a me la rete ha rilanciato, se la gente se ne nomo mio, perché ci sono sgagliato. Andò bene, io saluto a Giulio, stammi bene Giulio, e buone vacanze. Ciao a te che ho lanciato, se stai dormendo, so io non so con te cosa, come bisogna fare, avanti Marco. Allora, Marino, purtroppo è successo un macello, uno dei due smartphone è partito e praticamente WhatsApp non è più associato a quel numero. C'è un altro numero adesso, un'altra. Dobbiamo trovare il modo di comunicarcelo, capito? Per ripristinare il contatto. Ci avrei mandato direttamente al sito di Enrico Radios. E tu vedi proprio sul display 3G, Wi-Fi, capito? Però mi dice Gianfranco che si può anche interfacciare le radio, avere radio tramite crosslink, no? Sai quelle accoppiate di Zello più radio vere? Praticamente, come spiegartelo? È crosslink, così, il termine è quello. Ho capito, non credo mi faccio il mio telefono, già troviamo l'occasione, dai. Solo chiedo qua nostra, un calma, se ce l'hai non faccio l'altro, dai. Già capito che sto dicendo, bene, avanti da chi? Ok, bene. Allora, come stiamo andando Marino? Benissimo Bacchino, abbastanza bene, forte signore, forte, insomma, sembra che sei fuori dal cancello, dunque va abbastanza bene. Perché sono al cancello, non si è accorto, guarda fuori che mi vedi. E c'ho la telecamera inserita, sei da Zemino, sì, vedo la macchina e mi stai salutando, abbastanza bene, vai. Hai visto tu? Marino non si muove più dalla sedia, guarda lì la telecamera. E fatti bene, non ancora rimane imbusato, deve essere un coso, riesci. Ma Graziano non è più entrato? Come sta? Graziano in fede, Marco, Graziano in fede, doveva fare Barcellona e a Cuba doveva partire. Addirittura? Chi può, se non siete, se non parecchio si è sentito, non lo so come sta. Non è, se c'è due minuti ne faccio una bassa. Se capita c'è due minuti, domani mattina ne faccio una bassa, vediamo come sta. Stavo dicendo Marco, dunque quel numero che ho io lo posso già direttamente cancellare, giusto? No, no, assolutamente, quello per le telefonate va benissimo. Allora ti spiego, quel numero l'ho messo su un cellularino a tasti, perché come ho sempre detto io, a parte gli smartphone che possono impallarsi o impazzire come mi è impazzito il mio, ci vuole un telefonino a tasti. E quello è una scheda solo GSM, quindi puoi telefonare tranquillamente e ti passo l'altro numero, capito? Così ripristiniamo il contatto di WhatsApp, ok? Sì, se conosci due minuti ti faccio una batta, va benissimo, va abbastanza bene, io ti sei un gigante. E io, vedi adesso come sto andando adesso? Adesso sei, non fuori il cancello, sei dentro il cancello adesso. Perché tu, no, non so. Sì, già, abbastanza forte. Avanti, Tore, a pescare stavo per andare. Ah, cos'è che stai dicendo? Ma a pescare stanotte, no? C'è una portante o qualcuno che non sta uscendo. Vediamo, avanti che vuoi entrare, buonasera. No, l'ho sentita sotto di te, Marino. Anch'io ho visto un po' là come si è mosso. Avanti che vuoi entrare? Non lo so. Avanti, dove ci? Ti ho chiesto se vuoi andare a pescare stanotte. No, no, devo andare. Devo andare. Sarò più tardi. Ah, meno male, va? Meno male. Poi avanti, ma qui. Mamma mia. Quando penso che una volta avevo questa mania delle canne da pesca, mulinelli, e ci andavo, magari poi pigliavi nulla, però ci andavi, anche di notte, poi ho cominciato a fare due conti, l'umidità, la ghiaccia, ma che me lo fa più fare? È lo stesso la pesca sub, per quanto più che sub era la pesca di superficie col fucilezzo. Pensa che avevo comprato anni fa un Medisten, però della Homer, insomma l'equivalente del Medisten, ancora sigillato nella confezione, mai, non gli ho manco caricato l'aria, pensa. C'è stato un crollo di queste, anche il mio fisico ha detto tra noi, non me lo permette più di fare certe cose, o comunque non mi fido io. È già la definizione che ti danno, lo dice, anche nei manuali di sicurezza, dice, uno dice per entrare in acqua a fare quel tipo di attività deve essere in perfette condizioni fisiche e psichiche. Su quelle psichiche, oddio, quasi ci siamo, ma fisiche no, non rientro più nei requisiti. Sto invecchiando, Marco, sto invecchiando, la vecchia è carogna, il vecchiatore giovane, va a pescare cinghiali, squali, tutto quanto, dai dottore. Sì, ma non ti agita assai, però, bello bene, non ti agita assai, certo, ti stai sforzando troppo e parlando. No, agitarti, vero Bacchi? Scusa Marino, io in tutta la vita non ho mai voluto fare sport, né calcetto, né nuoto, niente. C'ho un fisico proprio che non c'ho, c'ho il fisico, c'ho panzi gobbo, così si dice. Già è bello andare a pescare, c'è anche un po' il sport, va. Ma va bene, poi uno va a pescare, se la pesca va bene, se la pazienza, passato un paio d'ore, tranquillità, va, insomma che piace. Poi già va lontano, anzi, sta chiamando so quanto, poi già va anche lui. Poi è un grande pescatore di squali, avanti so. Andava e anda, chiatta. Avanti se può andare più anni sul lugo, bubu. Riprenda signor Bacchisio. Ma nessuno siamo da segni in Darido, no? Che ci fai? Non sto uscendo Bacchisio, sto uscendo, Bacchisio sto uscendo. Basso Bacchisio di radio. Prova Bacchisio. Ehi, non mi senti Marino? Adesso si può cambiare il basso di radio, è molto basso. E così è. E quanto... Quanti mica ti allontanavi tu con il comune? cos'è il notaggio compreso? Da quanto miglia ti ha allontanato dalla spiaggia? Un miglio e mezzo, non di più. Già va bene, va, tanto, tanto passare mezza giornata, va, no, passa il tempo, già va bene. Poi uno pesca, non pesca, interessante, sta tranquillo e rimane una serata, se più, capito, rilassata. Già va bene, poi c'è la passione. Avanti da Chisio. Eia. Aspetta che fischi. Ho notato una cosa, l'alimentatore non ce la fa pilotare. L'alimentatore da 30 ampere non funziona più. Ma quale ce l'hanno tu adesso? Uno grande? Sì, è grande, ma alimentato col coso, con 20 ampere. E allora ci vuole quello più grande, leggermente? No, no, di 30 ampere non ce la fa più. Deve essere andato in Olamala, cinese era. E io sto usando uno qui, Ho bisogno di comprare una 50. Cos'è? Proxel? Non so, di quelli di scatolette che vendono in Cinese a Pedroniesa. Ma tipo quelli per i computer? Sì, quelli lì. Ah no, credevo... No, vabbè, io c'ho un Proxel che dite italiano, ma è cinese. Ma è con lo strumento, con le manopole. È roba comunque a basso costo, mi... finché durano poi. Non vale manco la pena ripararli. Perché c'è una componentistica che non trovi nemmeno. Ma questo è uno scatoletto di cipacco, l'ho comprato ai cinesi, 30 ampere, però funzionava bene se non altro ieri, adesso non ce la fa più. Adesso quando parli si siede. E batti, non portarlo molto, non portarlo molto, se si siede adesso rifà, usatene un altro. È seduto, rimane seduto. Ma... sai cosa faccio tu? Domani lo smonto e arrivo a Pettariti. Sicuramente ci sono andata in rammare i condensatori, ci sono gli alimentatori. Si sono stancati? Si sono esauriti. Avete non arrivato in 10? Minimo. Come? Segreto da chi? Minimo eravamo in 10. Minimo. Ma anch'io c'ho un 2030. Vabbè, siamo di bocca, di biglia e non lo so di sbaglio. Avanti tu. Sento uno sottofondo, non mi sbaglio. Ora, qualcuno si dice sottofondo? No. Non ho sentito nessuno sottofondo. Ma se non ho qualcuno stiamo modulando. Se io è zero modulazione sottofondo proprio. Va bene, avanti Marco. Marco sta mangiando, avanti gigante. Marco sta facendo colazione. E gli togliamo anche la scusa domani, ne mettiamo un altro nuovo. E vediamo un po'. Domani ne compro una a 50 ampere e se avessi ti sicuri che anche quello. Sicuramente sarà stanco, ma chi? Era stanco, dai. Ma c'è da poco, ci sarà 2-3 mesi, non di più. E caspita, se sei sceso sulle rocce, boh? Lo stavo usando solo per alimentare una parata, basta. Adesso non è alimentare, uno piccolino ce la fa a portare avanti, ma uno grande non lo porta più. Non lo sopporta, dice che è stanco. Salve, diavolo, è successo. Avanti, Tore. Guarda che non si sia abbassato il trimmer. E guarda che si sta uscendo a 13, 15. Però si sia abbassato il trimmer. È perché c'è un trimmer dentro. Questa è la scatola chiusa, to. Hai visto com'è, no? Devo spostarlo, aprirlo e sono dentro uno scatolone. Sono dentro un contenitore grande gli alimentatori. Ma c'ha un trimmer, c'ha, che non si sia spostato quel trimmer. Non sta uscendo a 13 o 15, hai capito? No, cosa, gli amperi mi segna tutti. Si è abbassato l'amperaggio, si è abbassato, perché prima arrivava sul giallo, adesso sul giallo non ci arriva più, arriva solo sul verde. Allora se si è abbassato l'amperaggio, vuol dire sono fatto dei condensatori, c'ha due condensatori, c'ha. Domani a vederlo, domani faccio l'operazione oppure stanotte. Sposto un po' di roba e faccio l'operazione a fare. Andemmo, vai, andemmo. Dai, dai. Cosa mi sono perso? Sono dovuto scappare in bagno, Ce ne siamo accorti, Marco, ce ne siamo accorti. Veramente io adesso stavo mangiando. Ho sbattato io, ho un zasco. Io no, anzi oggi ho... alle 3:30 ho pranzato. Perché per me è molto, ma molto presto. No, adesso vi spiego, no? Io prima di questa operazione, no, bevendo normale, io potevo fare la pipì alle 9 di mattina e poi potevo trattenerla tutto il giorno, non avevo problemi, c'avevo la vescica d'acciaio, no? E farla alle 9 di sera. Adesso invece è diverso. Praticamente l'urina è molto, sembra acqua, no? Molto trasparente e chiara, no? non giallina. Basta che tu ti bevi due bicchieri d'acqua, segui bene, due bicchieri d'acqua, dopo mezz'ora ti viene questo stimolo molto molto forte a farla e la devi fare, non puoi trattenerla, forse perché essendo troppo diluita l'acqua esce troppo pura ancora, la vescica non la sopporta e devi farla per forza. E piano piano Marco, ti devi sanare, piano piano, ci vuole un po' di pazienza, capito? Ci vuole un po' di pazienza. Anche io prima così, poi piano piano mi sono sanato, quando ho avuto dei problemi un paio di anni fa. Ci vuole un po' di pazienza, sono cose lunghe. Comunque tutto a posto, sì? Sì, sì, per quello sto benissimo. Comunque per il naso avevi ragione. Devi vedere queste croste attaccate alla mucosa che sono scese facendo gli sciacqui. Ma attaccatemi, le belle placche proprio. E quindi sto continuando a fare sciacqui nasali con la soluzione fisiologica, sai, perché è sterilizzata. Anche se io ho il brutto vizio di stare sempre col mignolo nel naso a scavare. E magari le mani... sai, quando esci fuori tocchi la macchina, tocchi tutto, il volante, insomma... non fa bene alla mucosa, mi poche parole, qualche batterio sicuramente ci entra. Esatto, mi sta attento. Vabbè, so che ti viene pulito, hai capito Marco, il pulito, bene che a me, figurati, io già, sono già 4 anni intervento l'ho fatto. Solo ho fatto intervento 4 anni e sono nuovamente come prima, mi sento all'interno nuovamente così, gonfio all'interno, dunque viene sempre pulito a toccare, ma... ogni tanto mi faccio gli sciacqui e va bene, dai, ci vediamo inverno, ottobre, novembre, chiamiamo con la vista, se no, vediamo cosa succede. Avanti, Bacchisio. E io, il naso lo lasciamo a parte, capito? Non usavo il naso, lasciamo stare. No, non mi sta andando bene, ogni po', ripeto, qualche pezzo ne scende, ma... viene un prurito, non finisce più, dunque devo insistere e nel pulire un pezzo da 3-4 centimetri. Sta facendo, ma che gli odori ne senti adesso, sì? Odore nulla, mi hanno fatto la polenta, dice, no, no, dice, l'odore non lo sente più in là, non sento niente, odore nulla. Ripeto, solo una volta alla settimana mi viene questo prurito e deve per forza insistere a soffiarti il naso e ripeto viene fuori un pezzo 3 cm, 4 cm di roba nera, dura come la feccia. Ma no, io non ne sento quasi tutti quanti, no, è quella roba, è questa roba residua che c'è sopra il naso, ma chi? È una roba che comunque non sta attaccando, capito? E già ne c'è da poco a me, figurati, ogni tanto ne c'è qualcosa, hai capito? Ogni tanto ne c'è qualcosa, collega, è naturale, poi gli odori lo dovete già sentire, là. Io già lo sento, solo che non lo sento nuovamente come prima, ovviamente non lo sento comunque interno e il filo come vorrei, hai capito, tutto qua. Bene, avanti Marco. Via. Dai, vedo che sono le 8 passate, io vado a vedermi mezzo telegiornale, dai. Mi ha voluto che stanno facendo sul canale 1 PMR, mi. Stavo facendo il servizio ai candelieri. Va bene. Dai, vi saluto tutti che si chiude adesso. Oggi si respirava almeno, sta entrando una bella aria fresca, però c'è un po' di venticello. Qua abbiamo aperto tutto in modo da raffreddare di notte e chiudere di giorno. Vabbè, poi domani siamo a sbaffo da mia zia, purtroppo ci saranno i parenti serpenti, però ha detto per il quieto vivere, così cercate di sopportarvi a vicenda, già lo sai, no? Va bene, ciao Marino, aspetta la tua chiamata, così ti do il numero veloce. Ciao Tore e Bacchisio, sì, solo in tre siete rimasti, ok? Ci sentiamo in altre occasioni, dai, domani sono assente. Poi, detto tra noi, noi vorremmo andare a pranzo, ma non vogliamo stare tra la sala lì buttati. Dopo il pranzo, due o tre orette, poi vogliamo tornare a casa comunque, se no... Io non sai cosa fare anche, capito? Ok, ciao a tutti, ciao. Ok, ciao Marco, ben sentito, grazie alla chiacchierata. Il paese di Settoni ti vuole mettere la schiena, non ti preoccupare, tu vai, con tua madre, mangi, bevi e fregatene, lascia perdere il giovanetto, fate bene, fate più signore, avanti da chi? Io, salutiamo Marco, buonasera Marco, buona visione di TV. E sentiamo domani, se tutto coincide, siamo dopo domani. Io vi saluto perché devo scappare, sono le 8 all'ora del merendero. Ciao Marino, salutissimi, sono dal Correa, sentiamo domani se tutto coincide. Ciao Tore, buona serata anche per te al Correa. A domani, Bacchisio di questo istante, ascolta Pinolino, passa in QR. Vai Marino. Benissimo Bacchisio, benissimo, ascolta, come dai un controllo. Se il segnale è sempre subito, ciao Bacchisio, ben sentito e sei tu in casa, ci vediamo domani se coincide. Avanti Tore. Ciao Bacchisio, ciao Marco, ci sentiamo. Marino, io ne apro. Approfitto lo stesso, Misio Ciamelli. Ok, ci sentiamo alle prossime. Non sto bugando, ma alle prossime. Benissimo, Tore, ciao Tore, ben sentito, sono in casa. Ci sentiamo se coincide anche domani. Avanti, Bacchisio, per controllo, la chiudo anch'io, vai. Bacchisio.